Ascolti, può raccontare quando aveva la loro età, 12-13 anni, com'è che era Lizzana? Mamma mia, era completamente diversa. Intanto non c'era la zona industriale, non c'era. Non c'erano tutte le case sotto la nazionale, a parte dove ha abitato lui, Perer, quelle case vicino alla scuola. Dopo sotto la nazionale c'era tutto campagna. Il villaggio Acri non c'era. Tutto campagna. E anche qui, tutta la parte alta che c'è adesso di Lizzana, quella non c'era. E addirittura anche la parte qua verso la circoscrizione, sapete dov'è la circoscrizione? Anche lì. C'erano pochissime case. Io mi ricordo le strade tutte bianche, non erano asfaltate, tutte bianche. L'unica. No, non c'erano le macchine, c'erano state, quando ero piccolo come voi, c'erano state 3-4 macchine in paese. Quindi era non di più. Una città silenziosa. Paese agricolo, c'erano le mucche, i carri. Mi ricordo io le mucche. Usavano i buoi più ricchi, i più poveri, il bue costava perché bisognava dargli da mangiare e non produceva latte. E allora usavano la mucca alcuni. La mucca la facevano lavorare in campagna e poi mungevano anche il latte. Povera bestia, poco latte faceva perché a lavorare, mangiava quello che mangiava perché qualche volta gli davano quaglia da mangiare quando non c'era più fieno l'inverno. Allora facevano qualche goccia di latte e in più la usavano per lavorare, la mettevano sotto il carro, la mettevano sotto l'aratro a arare la campagna. E poi le nostre case erano tutte fredde, non c'era riscaldamento. L'unico posto caldo era la cucina, dove si metteva dentro la legna. Lì era l'unico posto caldo. Quando si andava a dormire, freddissimo era. E si usava la scaldina. Sapete cos'è la scaldina? Sì.